Stella cadente. Splendente. Visio imminente. Traccia blu cobalto nell'aereo. Risplendere. Ere nuove. Stella cadente che risplende in aereo di ere nuove, traccia blu cobalto pendente, come una scura imminente ma lucente, stella cadente, dal grave peso. Stella cadente, vertigine frastuono, tuono buono, disio in dono, ritorno ad amo, amerò, amare, volare come in un mare magistrale. Magia che può accadere, stella cadente, volare sopra un mare di disio incantato, striscia blu pendente, diamante, stella cadente.